effettivamente il prossimo 19 di aprile Raul Castro cederà insomma il comando, che ha esercitato poi durante gli ultimi 12 anni, quindi non è proprio dall'altro ieri, e che poi suo fratello Fidel, come è notorio, ha mantenuto per quasi mezzo secolo. Gli scenari non è che sono di grandi novità, ovvero sia, certo, 8 milioni di cubani sono stati chiamati a ratificare poi una lista di 605 deputati dell'Assemblea Nazionale che erano stati preselezionati a livello municipale e approvati poi dalla Commissione Nazionale delle candidature dal Partito Comunista Cubano, che è l'unico autorizzato a partecipare, come ben si sa. E se tutto andrà, ma non ci saranno sicuramente sorprese, quella che è una consuetudine, poi tra parentesi anche abbastanza congelata dalla Costituzione, che il successore del Presidente sarà il Vicepresidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei Ministri, ovvero sia l'attuale, per l'appunto, Vicepresidente del Consiglio di Stato, Miguel Díaz-Canel, che è un po' l'uomo di Raul, ovvero sia un uomo di partito che è stato anche, ha avuto vari incarichi all'interno del PCC, tra l'altro anche quello della formazione dei quadri, quindi si è guadagnato anche una certa lealtà da parte di moltissimi quadri che sono stati formati nelle ultime generazioni. È un ingegnere elettronico di 57 anni, è stato ministro dell'educazione superiore nel 2009 e poi appunto responsabile della formazione dei quadri del Partito Comunista Cubano. Ecco, questo personaggio è un personaggio che è allineato, abbastanza allineato e coperto, diciamo, come si sarebbe detto un tempo. Sicuramente è l'uomo di Raul Castro, perché darà spazio sicuramente alla flessibilizzazione, tra virgolette, che ha lanciato Raul Castro rispetto a suo fratello, ma sempre nel marco, diciamo così, della tradizione del Partito Comunista Cubano stesso. Quindi la fermezza ideologica di Díaz-Canel sarebbe in qualche maniera in linea di continuità con quanto seminato in passato. Però insomma nel frattempo sono cambiate delle cose negli vicini Stati Uniti, insomma in questi primi mesi di governo Trump i rapporti con Cuba si sono di nuovo raggelati dopo lo scioglimento, diciamo, con Obama? Guarda, sicuramente sì. Io avevo in un'altra collaborazione che avevo fatto con Ade Fujica, avevo detto che sarebbe stato difficile tornare indietro sui passi fatti da Obama. In verità poi Trump effettivamente ne ha fatti di passi, solamente che sicuramente non è al centro o, per così dire, in testa alla lista delle priorità del Dipartimento di Stato, anche perché sarebbe un po' scomodo, perché molti industriali, vari settori, vari uomini di una certa importanza nel settore della produzione statunitense hanno visto molto di buon occhio nelle aperture che Obama fece con Cuba, per cui è insomma una patata bollente abbastanza antipatica da gestire. Solamente che le roboanti dichiarazioni di Trump vanno un po' anche a riappacificare gli ambienti istituzionali e soprattutto il governo statunitense con quegli ambienti che a Cuba vengono chiamati abbastanza coloritamente di gusanos, ovvero sia coloro che sono fuggiti dopo la rivoluzione del 59 e negli anni seguenti e che hanno di fatto costruito una sorta di impero economico soprattutto in Florida. Su questo poi c'è anche da dire che in questa congiuntura la bloghera, come viene chiamato, dissidente Joanny Sánchez ha scritto che probabile futuro presidente di Cuba, ovvero sia Miguel Díaz-Canel, di cui stavo parlando poco fa, è un fedele prodotto del laboratorio dei quadri politici. Qualcuno, dice la Sánchez, ha ammantato nel settore più duro del Partito Comunista Cubano e agganciato al copione ufficiale senza separarsi da una sola linea. E considerato che, oltretutto, ha detto anche un uomo grigio, senza carisma e non ha volontà propria. Ecco, questo, la voce di Joanny Sánchez, per quanto possa essere assolutamente antipatica in certi settori di appoggio a Cuba, è tenuta estremamente in considerazione invece da settori, diciamo così, della politica, dell'alta politica degli Stati Uniti e anche europea, per cui questo attacco preventivo su un'ufficializzazione, diciamo, di una presidenza già annunciata di Miguel Díaz-Canel sicuramente non è un buon segno per il futuro.